in primo piano. Il suicidio in carcere della brigatista Blefari Melazzi è sicuramente il titolo di apertura di quasi tutti i giornali. Si impicca la BR dei misteri, così apre il Corriere della Sera. Brigatista si impicca in carcere per Repubblica. BR, la Blefari si impicca in cella, così apre La Stampa. Galere d'Italia, questo è il titolo dell'Unità, con questo, la foto è quella di un braccio di una galera, di una prigione italiana. Scelta invece su i pediatri, vaccinare presto i bimbi, questo è il titolo d'apertura del Messaggero, ma è l'altro grande tema. Poi vedremo il Sole 24 Ore del lunedì, ovviamente come sempre è un po' diverso, fotografa la situazione dell'Italia, filtro obbligatorio per 1 milione di cause, un'interessante inchiesta sulla giustizia civile che poi vedremo. Ma come detto partiamo dal tema del giorno, che trovate con articoli e commenti, vale a dire il suicidio in carcere della brigatista Blefari Melazzi, che era stata accusata e condannata all'ergastolo per l'omicidio di Marco Biagi. 6 anni di silenzi, lettere e liti, i misteri della compagna Maria, così è il titolo dell'articolo a firma Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera. Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, ha dettato a verbale poco tempo fa, quando era stata convocata, si è trovata davanti al pubblico ministero, forse per collaborare, per iniziare una collaborazione, e invece poi ha cambiato idea sostanzialmente, secondo quanto racconta Giovanni Bianconi, e questo è, diciamo, l'ultimo atto che si conosce di Diana Blefari. Per il resto, scrive Bianconi, l'altro giorno ha ricevuto la notifica della condanna definitiva all'ergastolo per l'omicidio Biagi. Deve aver dato un colpo questo all'equilibrio sempre instabile col quale ha vissuto la galera, insopportabile quando le avevano imposto i rigori del 41 bis, ma pure dopo, quando era approdata a un regime penitenziario che la burocrazia delle prigioni definisce aperto. E ovviamente trovate già numerose sui giornali le polemiche, le discussioni, le questioni, cominciando da Repubblica, pagina 2 c'è un'intervista a Luigi Manconi, che è l'ex sottosegretario alla giustizia, oggi presidente dell'associazione A Buon Diritto, ha seguito il caso Blefari, ma anche il caso Cucchi, no? Quel ragazzo che è morto in circostanze da chiarire dopo l'arresto in carcere. E dice Luigi Manconi in questa intervista a Alessandra Retico: professore, se lo aspettava? Mi occupai di lei all'epoca del mio incarico del precedente governo. Ci furono molte perizie, decine, tutte quelle in cui la Blefari è stata sottoposta in questi anni hanno dato una diagnosi inequivocabile: gravi disturbi mentali. E invece condannata all'ergastolo, come dire, segnata nel destino. Ma il problema non è solo la disumanità della galera, dice Manconi. A me interessano i diritti disattesi. Se tu cedi un diritto, rinunci a un sistema generale di garanzie. E ancora, c'è un dato inequivocabile, dice Manconi, prodotto da molti studi: in carcere ci si ammazza tra le 15 e le 17 volte più che fuori, più i giovani che gli anziani, più nei primi giorni dell'ingresso negli istituti penitenziari che non dopo. Inutile mettere dentro chi può stare fuori. Così Manconi, così sull'Unità, insomma, c'è l'intervista a uno dei penalisti più importanti, Guido Calvi, che dice, snocciola le stesse cifre, dicendo che il nostro paese è anche quello dell'articolo 27 della Costituzione, che prevede la rieducazione, la reintroduzione di chi ha sbagliato nella società civile. Ci sono appunto rapporti come quello dell'associazione Ristretti Orizzonti, citato da Repubblica: quest'anno già 61 suicidi, pochi educatori, strutture troppo vecchie. Ma certo c'è da dire che c'è la polemica anche dalla parte opposta, o meglio, a queste accuse risponde per esempio con una bella intervista, colloquio, a Nicolò Zancan sulla Stampa, caro il bebe Tarantelli, vale a dire la vedova di Enzo Tarantelli, economista ucciso il 27 marzo 1985 dopo che aveva tenuto una lezione all'università. E beh, dice la vedova Tarantelli, il primo pensiero quando ho saputo la notizia è stata una pena infinita, turbamento, profondo dispiacere per una persona così disperata da togliersi la vita. Il secondo pensiero invece è stata una specie di paura. Non vorrei che adesso la storia delle nostre coscienze incominciasse l'attimo prima del gesto estremo e non nel contesto di violenza a cui Diana Blefari si è dedicata per molti anni, una violenza di cui il suicidio è solo l'ultimo atto. Dice perché gli italiani sembrano aver perso non solo la memoria storica, ma anche la capacità di costruire una memoria storica. Di cosa ha paura, signora Tarantelli? Beh, spero di sbagliarmi, ma temo che Diana Blefari possa diventare una vittima del sistema carcerario. Vorrei che non si dimenticasse il resto della storia, tutta la catena di violenza. La signora Blefari ha dichiarato agli inquirenti che se avesse avuto tra le mani Marco Biagi prima di ucciderlo, lo avrebbe torturato. Me lo ha confermato personalmente la signora Biagi. Parole orribili. L'omicidio non era sufficiente, avrebbe voluto di più. Ecco, vorrei che la pena di adesso non cambiasse la storia. E ancora, può essere stato un suicidio per motivi ideologici, chiede l'intervistatore. Non lo so, non mi azzardo. Non si possono indagare le ragioni profonde di un suicidio, è un gesto privato di una disperazione immensa, imperscrutabile. E poi chissà se stava collaborando, chissà come ha vissuto quell'esperienza dentro di lei, chissà come reggeva il carcere, una condizione sicuramente molto dura. Nessuno può sapere. Quindi questa la vedova Tarantelli. Anche sul giornale c'è un commento di Paolo Granzotto dal titolo emblematico «Finiamola con le ipocrisie». Siamo stanchi di capire, proprio Granzotto dice, leggerete dichiarazioni del tipo ennesima dimostrazione di inumanità e inefficienza del sistema carcerario, morte annunciata, sistema carcerario criminogeno e mortifero. Ciò detto, dice Granzotto, ci rifiutiamo di accodarci al pedestre cerimoniale demagogico, ipocrita e provocatorio che prende l'aire in casi come quelli di Diana Blefari Melazzi, cioè l'invito, la sollecitazione a capire per concluderne che se non fosse stata trattenuta in un carcere la brigatista non avrebbe pensato al suicidio. Insomma, le polemiche sono già innescate su questa morte in carcere per Diana Blefari. Ripeto, l'altro tema che avete sentito anche in GR24, ancora campeggia sui giornali un po' ovunque, è la morte un po' inspiegabile, inspiegata fino a questo momento di questo giovane Stefano Cucchi, la cui famiglia continua a insistere, insomma c'è qualcosa che ci hanno nascosto, è qualcosa che è successo, le terribili foto che sono state divulgate di questo ragazzo che è stato arrestato perché è piccolo spacciatore e dopo 6 giorni è uscito tra carcere ed ospedali morto. L'avvocato ora attacca dal Messaggero, la colpa è dell'ospedale. La ASL replica no, è stato curato con attenzione, ma insomma la sorella ancora dice non gli fecero chiamare il legale di fiducia. Ci sono ancora grandi polemiche su questo e tra l'altro c'è un'intervista che io voglio segnalare al ministro dell'interno Maroni sul Corriere della Sera, un'intervista a Dino Martirano in cui parla anche di questi temi. Per la verità Maroni parla soprattutto di quello che è successo a Napoli, dell'arresto, anche arresti importanti in questi giorni, sventato e tutto un clan, il clan russo sostanzialmente è stato smantellato almeno nei suoi capi, però parla anche nella chiusura dell'intervista della vicenda Cucchi e il suicidio della brigatista Diana Blefari Melazzi. Ora si apre un caso carceri nell'agenda del governo, chiede Dino Martirano. Non credo ci sia una questione carceri sotto questo profilo, dice Maroni. Questo è il suicidio di una persona complessa che aveva appena ricevuto la conferma della sua condanna definitiva e aveva problemi personali ben noti. E su Cucchi poi c'è un'inchiesta in corso, ma anche lì penso che il carcere c'entri poco. Questo dunque ha detto Maroni, beh, interessante come dichiarazione. Sul Diana Blefari Melazzi stava collaborando, non posso dire nulla su questo. Poi Maroni parla appunto di Napoli e come abbiamo sentito anche in GR24 parla di questo video, il video ormai diventato celebre dell'esecuzione vera e propria in piena Gomorra da parte di questo sicario della Camorra che ha ucciso Bacio Terracino e questo video che ha fatto il giro del mondo, non solo dell'Italia. Maroni dice io quel video non lo avrei trasmesso, l'ho visto in TV, ho un ottimo rapporto col procuratore Lepore, ma non condivido la sua decisione di far vedere il video, bastava pubblicare il fotogramma che inquadrava il killer, il soggetto. Avrei utilizzato il fotogramma perché sono immagini scioccanti, hanno dato l'idea di una città, Napoli, ben diversa dalla realtà. E sull'indifferenza dei passanti dico: il coraggio non è un obbligo, ma è anche inaccettabile che uno scavalchi un cadavere come se non fosse successo niente. Rimanendo a Napoli, ma in realtà è il tema che riguarda tutta Italia, c'è una polemica su questa influenza, insomma sul virus A. Perché? Perché lo leggo da Repubblica: troppi morti a Napoli, indaga la procura. L'ultima morta, sapete, è questa bambina di 11 anni, Emiliana Dauria, è la più piccola vittima italiana dell'influenza. Inchiesta al via, l'autopsia su Emiliana tra l'altro conferma il cuore era sano. E tra l'altro a Pompei, dove è successa questa disgrazia, dove era originaria questa bambina, oggi si annuncia su Repubblica scuole chiuse per contagi. Insomma, c'è un po', come al solito, di timore, forse c'è un'informazione un po' scarsa, e quindi si dà spazio anche a messaggi contraddittori. Sul Quotidiano Nazionale il presidente dei pediatri, il professor Mele, fa una lunga intervista, pagina 2 e 3, a dire: ora il virus è quasi al picco, bisogna vaccinare i bambini, è la pandemia, stiamo registrando un rallentamento ma restiamo in linea con i tempi previsti, occorre fare presto, dice, avviare le vaccinazioni per ridurre il picco di incidenza previsto tra 2-3 settimane, vaccinare i bambini a rischio entro la settimana sarebbe già un grande contenimento. Dunque per il capo dei pediatri bisognerebbe iniziare a vaccinare i bambini a rischio. Voglio lasciare questo tema e andare a quello della politica. La politica la trovate con alcune interessanti interviste, come spesso accade il lunedì. Innanzitutto voglio andare all'apertura del giornale. Napolitano e Fini osteggiano Silvio. Le manovre oscure della politica. Che sta succedendo secondo il giornale di Feltre? In questo articolo del vice direttore per la Verità Alessandro Sallusti si legge questo: c'è una sorta di governo parallelo che sta cercando di commissariare quello legittimamente in carica, l'intero Parlamento. E questo governo parallelo, secondo il giornale, vedrebbe in prima linea Napolitano, vale a dire il presidente, e Fini, presidente della Camera. L'ultimo capitolo della manovra anticavaliere, scrive Sallusti, porta le firme di Napolitano e Fini. Il primo, da qualche tempo, pretende di sapere in anticipo i provvedimenti di legge che sono all'esame del governo e del Parlamento. Una volta accontentato, muove le sue staffette per consigliare modifiche, in alcuni casi anticipare verdetti di bocciatura nel caso i provvedimenti arrivassero alla sua scrivania. Addirittura, secondo Sallusti, Andrea Ronchi, uomo forte di Fini, ministro per le politiche comunitarie, venerdì ha fatto sparire a sorpresa da un decreto in esame al Senato un emendamento non gradito al Quirinale, che avrebbe reso il Cavaliere meno esposto agli umori della magistratura. Davvero accuse molto serie, accuse molto gravi da parte del giornale oggi. E dalla politica voglio ripartire dopo il traffico, perché vi preannuncio alcune interviste interessanti. Una su tutti sarebbe da leggere intera, ma non si può, sono due pagine, a Fedele Confalonieri, un'intervista fatta da Claudio Sabelli Fioretti sulla Stampa. In primo piano. La democrazia ha dei freni che a Silvio danno fastidio. Questo è il titolo di una lunga intervista. Fare le interviste è un'arte. Claudio Sabelli Fioretti forse è quello... è l'artista numero uno in Italia. Leggete a pagina 12 e 13 sulla Stampa questa lunghissima intervista a Fedele Confalonieri. Come detto, sarebbe da leggere tutta perché è molto molto bella. Ne leggo alcuni stralci. Una sentenza dice che un magistrato è stato corrotto, chiede Sabelli Fioretti. Corrotto non da Berlusconi. La magistratura vi perseguita. Centinaia di perquisizioni, risponde Confalonieri. Senta, ma le leggi ad personam le fa per proteggersi. Se non fai la legge ad personam, vai dentro. Una volta dentro, poi non ti chiedono scusa. È il sistema della giustizia in Italia. I magistrati sono gli unici che non pagano mai. Irresponsabili. Ma scusi, perché i magistrati ce l'hanno con lui? Viene vissuto come un parvenu, come un intruso. E invece è un genio, dice Confalonieri. Di Berlusconi ovviamente si parla, Un giorno mi disse: costruisco una città di 10.000 abitanti. Pensai, che skill è Matt, che che vuol dire questo è matto. E invece no, era un innovatore, aveva capito che non doveva fare case, doveva fare quartieri. Sì, ma il papà, chiede Sabelli Fioretti, era direttore della Banca Rasini. Quando leggo quelle sciocchezze, la Banca Rasini, la mafia, beh, lo disse Sindona che era della mafia, ma dopo, dice Confalonieri, non quando c'era il papà di Silvio, poi non so in che mani sia finita. E agli inizi comunque Berlusconi si finanziò con 30 milioni della liquidazione di papà, altro che soldi della mafia. E poi salto un po' più avanti. Gira su YouTube un video con le bugie di Berlusconi. Berlusconi parla troppo, dice Confalonieri. Prenda la vicenda da Dario. Se non diceva un cavolo, in 3 giorni finiva. Le 10 domande di Repubblica? Dissi a Silvio, fregatene, non le legge nessuna. Invece lui va a parlarne a porta a porta. Gli italiani lo votano per quello che fa di giorno. Quello che fa di notte non interessa a nessuno. Ma è vero che risponde alle domande sul libro di Vespa? Se lo fa, è una grande sciocchezza. E poi ancora, sulla politica attuale, Tremonti sembra si candidi al dopo Berlusconi. Beh, in politica il primo avversario è il tuo vicino, risponde Confalonieri. È legittimo che un Tremonti pensi al dopo, essendo più giovane si prepara. Sarà lui il successore? Se Berlusconi resta ancora 4 anni, il suo successore sarà un giovane, uno che ha 30 anni. E se dovesse scomparire adesso, avrei paura. Temo una balcanizzazione, un disintegrarsi del sistema politico. Insomma, e poi più avanti parla di personaggi pubblici. Ferrara o Guzzanti? Mi piace Ferrara, ma è un po' troppo prete. Moretti o Travaglio? Moretti mi sta sulle palle, dice Confalonieri. Lo possiamo dire? Ma magari mettiamo sulle scatole. Mi sta sulle scatole. Noioso, fanatico anti-berlusconiano, uno di quelli che vorrebbero ucciderlo. Ma no, dai. Berlusconi è un dittatore, Berlusconi un caimano, se becchi uno con la testa fragile. E Travaglio gli ho piluccato un po' di soldi con 2 querele, 25.000 euro, non li ho dati in beneficenza come si usa fare, me li sono mangiati e bevuti. Insomma, leggetela, ne ho letto forse un terzo, forse anche meno. Ma c'è molto in questa intervista, così come in altre interviste che vi segnalo sul PD. Parla Cacciari, sindaco di Venezia. Continuerò a dire la mia, ma mi ritiro dalla politica. E beh, questa è una notizia anche questa. Ora ormai il PD è diventato la cosa 2, 3 o 4 di D'Alema, un dramma che si profila. Lasciamo perdere Prodi, Veltroni sì che aveva idee. Ora sostanzialmente me ne vado, non vede l'ora di tornarmi in università. E sulla Bindi che accusa Rutelli, ma vada a spasso, Cacciari dice. Ci vorrebbe un libro per raccontare i disastri della Bindi. Mentre su Repubblica parla il sindaco di Firenze, Renzi, che dice Rutelli sbaglia, io sono cattolico ma non lo seguirò, Bersani è il mio segretario a questo punto, anche se non l'ho votato, dunque diciamo fermento nel PD. Voglio saltare al Corriere della Sera, tornare al Corriere della Sera, dove oggi il direttore Ferruccio De Bortoli fa un editoriale che è molto legato al sondaggio nostro di oggi. I nostri figli ci guardano. Questo è il titolo dell'editoriale questa stagione di Fango e Veleni. In tempi di passioni tristi, valori deboli, forse è opportuno staccarsi un attimo dalle cronache, scrive De Bortoli, e chiederci come verrà giudicato tra qualche anno questo particolare momento della nostra vita pubblica e privata. Non dagli storici che speriamo abbiano di meglio di cui occuparsi, ma dai nostri figli. Davvero il paese è quello descritto dal profluvio di volgarità che ci inonda ogni giorno e da una classe politica che appare più attenta a rovistare nel letto dell'avversario piuttosto che confrontarsi su idee e programmi, che chiude la camera per una settimana perché non ha nulla da fare ma insegue senza sosta gossip di ogni natura, oppure da un'informazione che si disputa brandelli delle vite private dei rivali politici e non? Lo abbiamo già scritto, il paese per fortuna è diverso, molto diverso, migliore. E poi c'è insomma questa editoriale che, ripeto, si lega molto al nostro sondaggio di oggi. Dopo il caso Marrazzo, noi vi chiediamo se secondo voi c'è troppa morbosità nei mezzi di informazione, rispondete lì, io devo volare come il tempo che vola. Segnalo che trovate sia nell'editoriale di De Bortoli sia all'interno di Repubblica, in un lungo articolo di Roberto Saviano, la segnalazione di un libro che esce domani, è scritto dalla figlia di Walter Tobagi, Benedetta Tobagi, il Walter Tobagi ucciso, giornalista del Corriere della Sera ucciso dalle BR, ebbene, è un libro che io leggerò sicuramente. Voglio andare al Sole 24 Ore per concludere la segnalazione. Filtro obbligatorio per un milione di cause, questo è il titolo di apertura del Sole del lunedì. Come detto, perché? Perché parte, sta per partire la conciliazione, quella che Giovanni Negri in un fondo del Sole chiama appello finale per tagliare costi e tempi. Tribunali chiusi per un milione di cause civili. Con l'attuazione della delega sulla conciliazione, il tentativo è di trovare un accordo amichevole tra le parti che diventa ora obbligatorio per molte controversie. L'obiettivo ovviamente è quello di snellire molte delle 5 milioni di cause pendenti nel civile. Ci sono all'interno del Sole due pagine all'interno per capire come funziona. Dal giudice si va solo dopo la mediazione. Liti condominiali, affitti, eredità, prima di rivolgersi al tribunale sarà obbligatorio questo strumento della conciliazione. Beh, davvero l'ultimo appello forse per cercare di togliere l'intasamento dalla giustizia civile, che è un problema cronico. Segnalo in chiusura, ahimè, Inter, ciao ciao, l'Inter se ne va, ahimè, perché sapete che io sono milanista, e insomma questa è l'apertura della Gazzetta dello Sport. Ci fermiamo qui, 7.54, votate su radio24.it il sondaggio, ne parleremo alle 8.30, ora il GR.